I curdi, la marcia, la spina nel fianco di Erdogan, Brasile, la bomba nella bomba, si chiama carcere. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. As visitas têm de acontecer em horários desfasados para que haja o menor número possível de pessoas em simultâneo e é obrigatória a desinfecção e arejamento. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un buon inizio di settimana da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Tagli, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi Claudia Schiattone in assistenza e in regia ritroviamo Peter Bescapè. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp per domande, commenti e critiche sui due temi che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato una marcia dei partiti filocurdi in Turchia che promette di far dormire sonni poco tranquilli al presidente Erdogan. Dall'altro, la situazione esplosiva nelle carceri brasiliane, che sono alle prese, come tutti voi sapete, con un crescente numero di positivi di Covid-19. E vi racconteremo una storia che promette un regime carcerario alternativo con dei risultati a dir poco incredibili. Questi temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, 349-238-6666 per voi, sempre per voi, andiamo a sfogliare i nostri dossier. La prima storia che vi racconto è stata ripresa da quasi tutti i network e i media internazionali. È una spy story che coinvolge ancora una volta Mosca e va a probabilmente turbare, se non segnare per parecchio tempo, i rapporti tra Washington e Mosca stessa. Infatti, poche ore fa, un tribunale russo ha condannato per spionaggio un ex marine, Paul Whelan, a 16 anni di carcere in un peraltro istituto penitenziario di massima sicurezza. Questa sentenza, come vi dicevo, sarà ovviamente causa di ulteriori tensioni tra Russia e Stati Uniti. Whelan è un cinquantenne con cittadinanza inglese, canadese e irlandese. Fu arrestato alla fine del 2018 durante i festeggiamenti per un matrimonio in un hotel di lusso a Mosca. Secondo l'accusa, in una chiavetta USB in suo possesso vi erano segreti di Stato, sostanzialmente accusa di spionaggio. Whelan però sostiene di essere stato incastrato da una persona conosciuta e incontrata online. Il fratello David ha lanciato un appello al presidente statunitense Donald Trump dicendo che soltanto Trump è l'unico che può togliere dai guai il fratello e riportarlo a casa. Nel frattempo l'ambasciatore statunitense John Sullivan ha denunciato il provvedimento con, e leggo testualmente con queste parole, grave violazione dei diritti umani e delle norme legali internazionali. La decisione della Corte, scrive invece Whelan in una mail, si limita a completare l'ultimo pezzo di questo finto processo giudiziario. Pensavamo che la Corte potesse mostrare una certa indipendenza, ma alla fine, scrive l'imputato, i giudici russi sono entità politiche e non legali. Naturalmente, mettendo il grand'angolo, come al solito si comprende un po' di più anche la dinamica di questo caso giudiziario. Probabilmente è una mossa che potrebbe portare a uno scambio di prigionieri. In particolare, qualche tempo fa il governo russo aveva dichiarato la possibilità di essere disposti a uno scambio, appunto, di prigionieri. In particolare Whelan potrebbe essere scambiato con il pilota Konstantin Yaroshenko, che è un cittadino russo arrestato in Liberia con l'accusa di traffico di droga e poi trasferito negli Stati Uniti. Questo è il primo dossier, il secondo ci porta nelle Filippine con la voce accalorata di una collega, sentite. I appeal to you, the journalists in this room, the Filipinos who are listening, to protect your rights. Freedom of the press. La voce che sentite è quella della giornalista filippina Maria Ressa, è una delle critiche più feroci del presidente Rodrigo Duterte. Sta dicendo: mi appello a voi giornalisti in questa stanza e filippini che state ascoltando affinché proteggiate i vostri diritti. Se non userete i vostri diritti li perderete. La libertà di stampa è il fondamento di ogni singolo diritto che avete come cittadini filippini. Se non possiamo fare il nostro lavoro, ha concluso, voi perderete i vostri diritti. Che cosa è accaduto? Molto semplicemente, la giornalista Maria Ressa è stata condannata oggi per cybercalunnia. Sostanzialmente avrebbe scritto, avrebbe postato sul suo giornale online che lei ha fondato e dirige, Rappler, una serie di notizie che avrebbero, secondo l'accusa e riconosciuta anche dai giudici, diffamato un potente uomo d'affari filippino, secondo la giornalista in odore di legami con i potenti narcotrafficanti e trafficanti di esseri umani. A questo punto la reporter potrebbe scontare da 6 mesi, pensate, fino a 6 anni di carcere. L'aspetto interessante è che la notizia era stata pubblicata nel 2012 e incredibilmente, ma il governo filippino ci ha abituato anche a queste strane storture, quando è stata introdotta la legge sulla diffamazione online, ebbene, è stata applicata in maniera retroattiva, per cui la giornalista che aveva compiuto il presunto reato alcuni mesi prima dell'entrata in vigore della legge è stata costretta e sarà costretta molto ragionevolmente a pagarne le spese. Non è la prima volta che questo sito Rappler viene in qualche modo preso di mira dal presidente Duterte, vari capi di imputazione gli sono stati appunto imputati, dall'evasione fiscale, violazione della legge sulla composizione della proprietà dei media. Peraltro ricorderete anche la chiusura dell'emittente televisiva ABS-CBN che è avvenuta lo scorso 5 maggio. Grazie a questa ferrea politica di Duterte, che pare essere particolarmente allergico ai giornalisti, il paese è finito al 136esimo posto mondiale nella classifica della libertà di stampa che viene redatta ogni anno dall'associazione Reporters Sans Frontières. 136 su quanti, vi starete chiedendo? Beh, 180. Peraltro Duterte non si è mai nascosto dietro a frasi in punta di penna. A un certo punto, qualche mese fa, aveva addirittura dichiarato: solo per il fatto di essere giornalista non vuol dire che non puoi essere assassinato. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Fra pochissimo ve ne darò conto, non prima di essere andati in India, dove la situazione per i numeri del contagio da coronavirus è sempre più preoccupante. Il paese a questo momento ha raggiunto il quarto posto in questa poco invidiabile classifica dopo Stati Uniti, Brasile e Russia. La classifica viene redatta con l'aggregazione dei numeri che viene fatta praticamente continuamente dalla Johns Hopkins University. Nel paese vi sono 330.000 casi con una media di 12.000 contagi al giorno. Quello che è accaduto è che recentemente il presidente Narendra Modi aveva autorizzato la riapertura in molte città, in molte metropoli e in molti stati, con la conseguenza che in alcune situazioni, come per esempio Mumbai ma anche Delhi, le terapie intensive sono al 99% occupate e sono in alcuni casi totalmente occupate. Particolarmente colpito lo stato del Tamil Nadu, che oggi ha annunciato un nuovo lockdown completo in ben 4 distretti dal 19 al 30 giugno. Vedremo se sarà efficace. E poi in Nigeria, perché vi sono stati 2 attacchi che sono stati rivendicati da quella che è una costola della formazione islamista Boko Haram, l'acronimo è ISWAP, Islamic State of the West Africa Province. È un gruppo che era in seno a Boko Haram fino al 2016, poi per dissidi vari si è totalmente staccato. Si è staccato, è dissidente ma non rinuncia alla violenza. Almeno 20 soldati e più di 40 civili uccisi e centinaia di feriti in 2 attacchi gemelli che sono stati compiuti sempre nello stato del Borno, siamo nel nord-est della Nigeria, che non riesce a uscire da questo tunnel di violenza di marca jihadista. Gli attacchi sono avvenuti sabato nelle aree di Monguno e Nganzai, pochi giorni dopo che alcuni combattenti armati avevano ucciso almeno 81 persone in una rappresaglia e in un villaggio a Gubbio, e di questo avevamo dato notizia. L'aspetto interessante, tragicamente interessante, è che in questo attacco i miliziani si sono presentati armati di tutto punto, anche con lanciagranate, con automezzi, e questo fa pensare che vi sia una capacità operativa e logistica da parte di Boko Haram che ancora l'esercito di Abuja non è riuscito a fiaccare. I combattenti sono riusciti a sconfiggere la debole resistenza dell'esercito nigeriano e poi vagare indisturbati per almeno 3 ore uccidendo civili e saccheggiando le 2 città, fino ad arrivare, pensate, a incendiare il centro umanitario delle Nazioni Unite e la stazione di polizia locale. Fatte salve le debite proporzioni, questo è un durissimo colpo che ricorda l'attacco alla sede ONU di Abuja. Lì, per carità, eravamo nella capitale, ma anche qui è stata colpita un'istituzione internazionale. E non è un caso che prima di darsi alla macchia, è il caso di dirlo, perché si sono rifugiati nella foresta di Sambosa, che è uno dei covi più importanti di Boko Haram, I miliziani hanno lasciato una serie di volantini in cui si raccomandava alla popolazione di non collaborare assolutamente né con l'esercito nigeriano di Abuja e nemmeno con nessun occidentale o bianco organizzazione internazionale, facendo fede in qualche modo a quella che era l'appartenenza originaria a Boko Haram. Boko Haram in lingua Hausa, in parte arabo, vuol dire l'educazione occidentale è vietata, che vuol dire che ancora una volta tutti quelli che sono i bianchi e gli occidentali e qualsiasi organizzazione è dichiarata nemica. Allora ci sono un po' di notizie, di commenti e di domande al 349-238-6666. C'è qualcuno che stigmatizza il comportamento americano. Enrico: gli statunitensi non possono gridare allo scandalo contro la Russia, visto che negli ultimi 80 anni sono stati i giudici di se stessi. Così Enrico. Qualcun altro che torna sul punto delle Filippine: il problema è che Duterte trova largo consenso nelle Filippine, nel ceto povero e meno acculturato, e ha costruito il suo successo con queste frasi a effetto. Non soltanto, aggiungerei, gentile ascoltatore, frasi a effetto, ma anche una politica deprecabile. Ricordate la lotta senza quartiere ai narcotrafficanti? E hanno fatto le spese centinaia e centinaia di civili innocenti. Molto spesso l'unica colpa era di essere tossicodipendenti, in altri casi nemmeno quello. Questi vostri messaggi, questi nostri dossier internazionali rimangono lì sul tavolo di Nessun Luogo Lontano, saranno probabilmente approfondimenti nei prossimi giorni, ma adesso, Peter, andiamo in Turchia. Bu yürüyüş darbeye karşı bir demokrasi yürüyüşüdür. Dolayısıyla bu yürüyüşün önüne çekmek istediğiniz setler, kurmak istediğiniz barikatlar asla bizi kararlı yürüyüşümüzden geri adım attıramayacak. Quello che state sentendo sono i suoni, gli slogan politici e anche la rabbia di partiti filo-curdi che questa mattina hanno iniziato una marcia che promette sostanzialmente di incrociare da un lato all'altro la Turchia per protestare contro la stretta da parte del governo di Erdogan proprio sulle ambizioni e sulle aspirazioni dell'anima curda. Questa prima pagina è tutta dedicata a questo aspetto prettamente politico. Non va dimenticato allo stesso modo che Erdogan in queste ore ha anche lanciato una serie di raid nel Kurdistan iracheno per andare a fiaccare elementi del PKK, che è l'ala armata del partito curdo. Due piani quindi quelli che cercheremo di affrontare quest'oggi, per cercare allo stesso tempo di raccontarvi come, a fronte di una strabordante arroganza in politica estera da parte di Erdogan, abbiamo raccontato l'accordo con Sarraj, la presenza in Turchia, persino in Somalia, i suoi appetiti nel Mediterraneo, ha questa spina nel fianco che è tutta interna e che si chiama appunto il partito curdo. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano a Marta Ottaviani, giornalista freelance. La potete leggere su Avvenire, su Stampa e naturalmente ascoltare qui su Radio 24. Marta, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Marta, abbiamo sentito, diciamo, l'aspetto, se vogliamo, quello più nobile, no? Delle aspirazioni curde, l'aspetto puramente politico. Un Erdogan super attivo in tantissimi fronti, ma che continua a non avere la meglio su questi impulsi, no? Anche molto, molto potenti, sempre dal punto di vista politico evidentemente, da parte delle anime curde. Cosa potrebbe costare a Erdogan il fatto di non risolvere una volta per tutte questa dinamica? Risolvere evidentemente non vuol dire repressione a tutti i costi, per carità. Marta Ottaviani. Ma io credo che tutto sommato a Erdogan che i curdi rimangano così, diciamo, in qualche modo belligeranti all'interno del paese faccia anche comodo per poter scagliare tutta una parte di sua propaganda contro di loro e dare la colpa a loro e creare casi politici per coprire quelle che sono le effettive deficienze, no, del suo governo, in primo luogo la crisi economica che si sta scagliando sulla Turchia con violenza e alla quale Erdogan non solo non è ancora riuscito a trovare un rimedio, questa volta sembrerebbe proprio non avere nemmeno un piano per affrontarla che possa rivelarsi efficace. Quindi sì, credo che a Erdogan in qualche modo mantenere alta la questione curda faccia comodo per motivi di propaganda interna. Non ci dobbiamo poi dimenticare che, per quanto indeboliti, assenti e dalla vita politica e dalle agende, bisogna anche ricordarlo, di tutte le cancellerie europee, però i curdi in Turchia sono dai 15 ai 20 milioni, quindi non esattamente una minoranza nel senso lessicale della parola, rappresentano un bacino di voti importante che rischia di disperdersi un po', perché non dobbiamo dimenticare che la dirigenza dell'EDP, il partito curdo, che nel 2013, ricordiamo, nel 2015 ricordiamolo, era arrivato a sfiorare addirittura il 13% dei consensi, un risultato storico, sì. Adesso dopo il golpe del 2016 soprattutto ha visto la sua dirigenza completamente decapitata, tra cui, non ce lo dimentichiamo, Selahattin Demirtas, il segretario del partito, che veniva considerato l'unico in grado di affrontare il carisma di Erdogan, che è in carcere ormai dal 2017 e ha avuto anche due infarti in carcere, non ce lo dimentichiamo, con anche dei dubbi sulla cura che ha ricevuto in questa occasione da parte dei sanitari. Marta Ottaviani, nelle tue parole si evince che questo braccio di ferro tra l'anima, diciamo anima, una corposa anima, come ricordava giustamente la Ottaviani, in seno alla Turchia, Erdogan in realtà possa trasformarsi, Erdogan lo ha fatto, in una formidabile leva politica, anche magari per distrarre l'opinione pubblica da altri problemi. Marta, facevi riferimento all'EDP, facevi riferimento a Demirtas, ascoltiamo in 90 secondi come si sono tradotte in termini parlamentari le aspirazioni politiche dei curdi. Il 31 marzo 2019, Yashar Akkush, candidato del Partito Democratico dei Popoli, o HDP, è stato eletto sindaco di Idiş, una città della Turchia orientale, con il 50,1% delle preferenze. Un ottimo risultato per un partito filo-curdo, ma Akkush è rimasto in carica per poco più di un anno. Il 15 maggio scorso, infatti, è stato arrestato insieme al primo cittadino di Altinoa e ad altri tre co-sindaci, tutti appartenenti all'HDP. L'accusa nei loro confronti? Appartenenza al PKK, il partito curdo dei lavoratori, che la Turchia considera un gruppo terrorista. Da marzo 2019 a oggi, 43 delle 65 municipalità turche conquistate dall'HDP sono state commissariate dal Ministero dell'Interno. È solo l'ultimo di una serie di attacchi condotti dal governo di Erdogan contro il Partito Democratico dei Popoli, un partito di opposizione, nato nel 2012, che riunisce forze filo-curde e forze di sinistra e che mette al centro del suo programma elettorale l'attenzione per le donne, i diritti delle minoranze, la partecipazione democratica. Alle elezioni parlamentari del giugno 2015, l'HDP ottiene il 13% dei voti e conquista 79 seggi. Per la prima volta un partito curdo entra in Parlamento. Degli oltre 550 candidati espressi, più della metà sono donne. Sempre tra le fila dell'HDP si presenta il primo candidato dichiaratamente omosessuale della Turchia. A partire dal 2016 gli esponenti dell'HDP sono finiti sempre più spesso nel mirino delle autorità giudiziarie turche. Il 20 maggio 2016 il Parlamento turco ha votato a favore della revoca dell'immunità parlamentare, a seguito della quale 54 dei 59 deputati HDP sono stati processati per terrorismo. Tra il 2015 e il 2018, più di 11.000 degli oltre 37.000 membri dell'HDP sono stati fermati e 3.382 sono stati arrestati. Tra questi, Selahattin Demirtas, co-presidente del partito fino al 2018. Arrestato il 4 novembre 2016 con l'accusa di diffondere propaganda a favore dei militanti che combattono lo Stato turco. Da quel giorno Demirtas è detenuto in attesa di giudizio. Questa è la sconfortante, se volete, fotografia politica che ci arriva da quello che è il risvolto prettamente parlamentare, ma a questo punto anche giudiziario, dell'anima curda in Turchia. Marta Ottaviani, firma della Stampa, a venire. Voce anche qui da noi a Radio 24, ci sta raccontando di come Erdogan, tenendo la braccia accesa sotto la cena della questione curda, possa utilizzare una formidabile leva. Eppure, Marta Ottaviani, il successo dell'EDP, HDP è l'acronimo, questo partito filo-curdo, aveva delle tematiche che erano anche importanti, no? Sull'uguaglianza, i diritti, ovviamente le minoranze, eccetera. E con un bacino così ampio, com'è possibile che non abbiano maggiore presa? Com'è possibile che non siano riusciti a scalfire in qualche modo il partito, la KP di Erdogan stesso? Ma allora, anzitutto c'è da dire una cosa, che l'EDP aveva avuto anche un discreto risultato alle ultime elezioni, finché poi però non è cambiato il sistema elettorale, e quindi con la coalizione tra gli islamico moderati di Erdogan, chiamiamoli così, e i nazionalisti dell'EDP sono riusciti a conquistare la maggioranza in Parlamento. L'EDP poi deve scontare il fatto che comunque c'è ancora un grandissimo pregiudizio da parte dei turchi nel votare un partito curdo, e a questo purtroppo non ha certo contribuito in maniera positiva all'ondata di violenza, ve la ricorderete, tra il 2015 e il 2016, dove la Turchia è stata bersagliata non solo da attentati di matrice islamica dell'ISIS, ma anche da tanti attentati di matrice curda organizzati da quell'ala del PKK, l'ETAK per la precisione, che è vede ancora nella lotta armata l'unico modo per poter fare opposizione allo Stato turco, e ha creato non pochi problemi proprio anche all'EDP, che si è sempre distaccato da questa politica, diciamo, di lotta armata. Quindi sicuramente è un partito che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni, ma che si è improvvisamente arrestato, anche, non ci dimentichiamo, per l'ondata di censura che c'è stata nel paese dopo il golpe fallito del 2016, che ha praticamente azzerato la vita civile turca. Ma ancora oggi le iniziative democratiche più importanti vengono o lanciate o sostenute proprio dall'EDP, che nel 2015, voglio ricordarlo, aveva il programma politico più europeo di tutti. Nelle parole di Marta Ottaviani, ancora una volta un strano processo politico in Turchia. Da un lato l'anima del PKK, quella armata che non rinuncia a quel percorso per scuotere il governo turco, dall'altra parte un EDP che cerca un percorso di normalizzazione, di istituzionalizzazione, è quasi riuscito, però questa strana ambiguità per cui il popolo turco percepisce i curdi come un tutt'uno, correggimi se sbaglio Marta Ottaviani, porta in qualche modo, no, a una testa contro testa, testata contro testata, mi verrebbe da dire, e quindi a un impasse anche politico istituzionale. Grazie mille Marta Ottaviani per essere stata con noi, una buona giornata e un buon lavoro, alla prossima Marta. Buona giornata, arrivederci. Allora Peter, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come va la borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano ci porterà in Brasile. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Tra pochissimo apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano e vi porterò in Brasile, non prima di avervi dato conto di un po' di sms e whatsapp arrivati al 349-238-6666. Ataturk ha rimpiazzato l'imperialismo con il nazionalismo. Come potrebbe Erdogan rinunciare a parte dell'Anatolia? Sarebbe la fine politica della Turchia moderna, così scrive un ascoltatore, che poi aggiunge: anche se i curdi ottenessero l'indipendenza, e questo mi sembra veramente qualcosa di assolutamente improbabile, poi cosa farebbero? Continua l'ascoltatore, improbabile lo dicevo io, per carità, senza sbocchi al mare, circondati da paesi ostili, non avrebbero futuro. Non è che per caso gli fa eco Manfredo da Firenze: la parte più oltranzista dei curdi siano in realtà gli utili idioti al servizio di Erdogan. E ancora qualcun altro che addirittura va ad assimilare la recente politica di Erdogan con quella di Hitler: eliminare gli avversari, poi prendere l'Austria, dall'altra parte trivellazione del Mediterraneo, se la prende coi curdi, poi va in Libia con gli avversari politici e nessuno dice nulla. Chiude sconfortato un ascoltatore che si chiama Sam. Questi i vostri commenti, ci torneremo sicuramente, perché qualcuno tira fuori anche il vecchio dossier, quello di Ocalan. C'è materiale per altre puntate in Nessun Luogo Lontano. Adesso però, Peter, portaci in Brasile come solo tu sai fare. In Brasile, per raccontarvi tre situazioni e tre piani diversi. Partiamo da quello che è la diffusione del coronavirus. Secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, il Brasile è adesso il secondo paese più colpito e siamo dietro solo agli Stati Uniti d'America. Si è registrata negli ultimi giorni una crescita più moderata rispetto alla media dell'ultima settimana, forse in realtà qualcuno dice per la festività domenicale. Comunque i casi a oggi confermati sono 867.624 con 43.332 detenuti. Quindi questo è il primo livello, la diffusione del Covid-19. Poi c'è la spietata fotografia della situazione carceraria in Brasile. Perché dico spietata? Perché il Brasile registra la terza popolazione carceraria più grande al mondo. Siamo dietro la Cina, 1,6 milioni, e dietro gli Stati Uniti, che sono a 2,1 milioni. Il Brasile ne ha quasi 800.000. Secondo i dati forniti dal Brazil Institute, tra il 2000 e il 2015 la popolazione nelle carceri è aumentata del 14% a fronte di un aumento invece demografico che era del 170%. Tasso di detenzione sempre in aumento. Nonostante tutto ciò, i vari governi non hanno saputo accomodare, è il caso di dirlo, il sempre crescente numero di detenuti, proprio perché in questo momento non resta che fotografare un sovraffollamento enorme nelle carceri brasiliane. E a questo punto manca il terzo livello, questa lacuna la vado a colmare immediatamente: carceri più coronavirus. Il Brazilian Report ha pubblicato un articolo il 5 maggio del 2020 descrivendo come, secondo i dati del sistema penitenziario brasiliano, il tasso di letalità nelle prigioni brasiliane è del 5,5%, il che vuol dire 5 volte più alto della popolazione che abita fuori dalle carceri. Secondo i dati del Dipartimento Penitenziario Nazionale, aggiornati al 10 giugno, per adesso nelle carceri brasiliane ci sono 1.867 casi confermati, 664 sospetti, 47 le morti accertate, due fra l'altro morti per le rivolte scoppiate proprio all'inizio del Covid-19 con il lockdown che tanti problemi e disagi ha creato, e l'abbiamo visto anche in Italia. Nel 2017 Amnesty International ha lanciato un progetto che racconta le storie dei detenuti. Un uomo di nome Emerson ha raccontato di aver condiviso una cella di 3 metri quadrati con 40 uomini, e questo per 4 anni di seguito. In queste condizioni immaginate come raccomandare il distanziamento sociale sembra uno scherzo beffardo e crudele. Per cercare di capire meglio questi tre livelli, come veneficamente si stiano intersecando in Brasile, vi porto a Belo Horizonte con la voce di Jacopo Sabatiello, direttore operazioni di ABSI in Brasile. Jacopo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Allora, buongiorno a te, Gianpaolo. Jacopo Sabatiello, io partirei con te da quello che è uno strumento di protezione, un dispositivo che ormai tutta la popolazione mondiale ha imparato a utilizzare. E gli ascoltatori forse si chiederanno adesso, sto parlando della mascherina evidentemente, che cosa c'entrano nelle carceri brasiliane con le mascherine. Ce lo puoi spiegare in sintesi? Sì, molto rapidamente, attraverso un finanziamento dell'Unione Europea stiamo strutturando 23 unità produttive, piccole officine, all'interno di alcune carceri, 23 carceri nello specifico, per la produzione di mascherine che saranno poi donate alla popolazione locale, priorizzando quella più vulnerabile. Saranno coinvolti circa 400 carcerati e la produzione speriamo che possa superare le 350.000 unità. Nelle parole di Jacopo Sabatiello, lo ricordo, dirige le operazioni di ABSI, questa fondazione che è di base a Milano ma lavora in tutto il mondo e che in questi mesi di Nessun Luogo Lontano abbiamo imparato a conoscere grazie ai suoi progetti, e nelle parole dicevo che arrivano da Belo Horizonte, abbiamo scoperto un primo tassello di come la vicenda, le dinamiche del Covid-19 si stiano intersecando con la popolazione carceraria. Ma ancora più interessante, Jacopo, e torno immediatamente da te, è questo progetto che con ABSI e con i finanziamenti dell'Unione Europea state seguendo ormai da tempo in alcune carceri brasiliane, in particolare Minas Gerais, che è lo stato in cui ti trovi. E questo progetto risponde a un nome, un acronimo, che è APAC. Ci puoi spiegare che cosa significa e che cosa vuol dire questo? Sì, APAC, Associazione di Protezione e Assistenza ai Condannati. Sono delle associazioni, delle organizzazioni della società civile che gestiscono piccole carceri, al massimo 200 persone, con l'obiettivo di promuovere la reintegrazione sociale di questa persona, senza perdere di vista la finalità punitiva della pena. Ma la cosa interessante è che queste carceri sono gestite senza la presenza né di armi né di polizia, attraverso un modello di cogestione basato su tre punti centrali: la valorizzazione umana, la fiducia e la disciplina, che in queste carceri deve essere rispettata al massimo. Sì. ABSI si inserisce aiutando le APAC nella sua espansione, tanto in Brasile quanto in America Latina, con l'obiettivo di ridurre i maltrattamenti all'interno delle carceri latinoamericane. Sì, noi abbiamo dato brevemente conto di quella che è la situazione nelle carceri brasiliane in questi mesi di Nessun Luogo Lontano. Spesso siamo entrati in punta di piedi e molto spesso con orrore nelle carceri latinoamericane: sovraffollamento, replica a tutti gli effetti di quelle che sono le dinamiche criminali all'esterno del carcere, quindi gang che si formano, che si alimentano, dei boss che continuano a fare i loro traffici. Ecco il paradigma che viene proposto, Jacopo Sabatello, con l'APAC, con questo regime detentivo assolutamente alternativo, a qualcuno farà storcere il naso, ma in realtà i dati che ci arrivano poi anche dai dati ufficiali brasiliani ci mostrano che chi viene sottoposto a una pena detentiva ma riabilitativa, quindi che prevede il lavoro, che magari non prevede l'utilizzo di guardie carcerarie, ebbene i tassi di recidiva crollano vertiginosamente, segno che funziona. Ci dai qualche altra misura di quanto questo paradigma possa essere mutuato anche in altri paesi? La metodologia PAC nasce in Brasile ormai 40 anni fa. I risultati che oggi abbiamo sono realmente un crollo della recidiva dall'85 al 15%. E questa metodologia è riconosciuta anche in altri paesi, per l'esattezza 12, tre dei quali in America Latina. Chiaramente ognuno con modalità diverse, rispettando la legislazione locale di ogni Stato. Quello che è importante evidenziare anche è il costo, costo per lo Stato, che è di un terzo rispetto al sistema tradizionale, tanto per la costruzione quanto per la manutenzione dei posti di queste persone. È certo, perché vuol dire minore personale pubblico, polizia carceraria, per guardare i detenuti, e il coinvolgimento stesso dei detenuti evidentemente va ad abbattere i costi. Peraltro leggevo statistiche che vanno dai $470 ai 1200, a seconda che le carceri siano federali o meno. Immaginate, stiamo parlando di decine di migliaia di dollari ogni anno per mantenere in piedi un sistema carcerario troppo probabilmente orientato sull'ottica punitiva dei detenuti. Tra pochissimo torno da Jacopo Sabatello, perché ci sono un po' di domande che arrivano al 349-238-6666. Prima però andiamo sulle strade. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio, per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni, e che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza? Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro-digitale. Ready? Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, sempre in Brasile, per cercare di ragionare di carcere, ma soprattutto di pene alternative. quelle del progetto APAC, quelle che segue AVSI, che ci sta raccontando Jacopo Sabatello, che è direttore delle operazioni della fondazione proprio in Brasile, un progetto che loro sostengono da tempo. Peraltro Jacopo Sabatello ha avuto la fortuna di poter studiare questo tema interessantissimo in tante carceri in giro per l'America Latina. Peraltro io devo chiedere scusa agli ascoltatori di un evidente lapsus, ho detto 40 uomini in 3 metri quadri, questo non è possibile, mi fa ironicamente sottolinea un ascoltatore che non ci stanno neanche se ridotti allo stato liquido, e quindi sono 30 metri quadri, scusate, ho detto 3 metri quadri, che ovviamente è impossibile. Torno da Jacopo Sabatello proprio per cercare di capire come sia possibile che alcuni stati brasiliani applichino questa pena, questa formula, questo nuovo paradigma, che poi tanto nuovo forse non è, e altri invece no. Dipende da cosa? Da giudici particolarmente aperti e volonterosi? Esattamente, dipende dal coinvolgimento delle persone, giudici, segretari di Stato, persone con una, da un lato, una capacità di visione importante, e dall'altro anche una sensibilità sociale che permette di avvicinarsi alla situazione di queste persone e capire che la soluzione non è rinchiudere attraverso l'incarceramento di massa, sì, che questo è solamente mettere la polvere sotto al tappeto. Certo, tra l'altro, certo, non esiste ergastolo in Brasile, non esiste pena di morte, queste persone torneranno alla società ancora più pericolose. Sì. Allora, con Jacopo Sabatello c'è un altro tassello che credo dobbiamo aggiungere per dovizia di completezza e di informazione. Che tipo di reati hanno commesso i detenuti che poi possono accedere a questo tipo di pene che non sono punitive ma sono anche rieducative, quindi possono avere accesso a assistenza psicologica, non hanno bisogno di guardie carcerarie e possono soprattutto lavorare? Solo reati minori o anche i delitti più gravi? No, il reato non incide sulla possibilità di un condannato a pena privativa di libertà di andare all'APAC. Qualunque reato commesso, omicidio, traffico di droga, fino a stupro, pedofilia, non incidono sulla possibilità di andare all'APAC. Sì. Ci sono alcuni criteri che vengono utilizzati da parte dei giudici di sorveglianza, che qua si chiamano di esecuzione penale, sì, e sono fondamentalmente tre. Il primo è avere la famiglia residente nella giurisdizione dove la PAC è localizzata, per promuovere questa prossimità. Il secondo è che siano stati condannati, per cui non è possibile che delle persone in attesa di giudizio vadano alla PAC. E il terzo è di aver passato almeno un periodo in un carcere comune, oltre chiaramente a manifestare il desiderio di andare, perché sì, è importante voler tentare, certo, di cambiare il. Certo, tentare di abbracciare questa via, che è una via alternativa e che va in qualche modo, Jacopo Sabatello, a scalfire quella che invece è una consolidata non solo letteratura criminale ma anche politica, se vogliamo, che registra una forte stigmatizzazione dei detenuti nelle carceri brasiliane. Non da ultimo, peraltro, il presidente Bolsonaro, per esempio, ha scritto: dovete arrestarli, tenerli rinchiusi. Questo era uno dei suoi slogan durante la campagna elettorale, quindi prevedeva carcere duro e buttare via la chiave sostanzialmente. Robert Muga, che è il direttore e il cofondatore dell'Istituto Igarapé, che molto spesso è nostro ospite, esperto soprattutto di criminalità urbana, ha scritto recentemente: molti brasiliani sono insensibili alla violenza, soprattutto quando si verifica nelle carceri. Detenuti e criminali sono disumanizzati, generalmente considerati meglio morti, qua mi perdonerai per il mio pessimo portoghese brasiliano, bandido bom e bandido morto, cioè un buon criminale e un criminale morto. Quanto pensi possa essere efficace, e ti do 30 secondi, abbi pazienza Jacopo Sabatello, per rispondere, quanto pensi che possa essere efficace un programma come APAC in generale nel lungo termine in un paese come il Brasile, anche per andare a scalfire, no, questa narrativa e questo stigma che la popolazione carceraria si trova addosso? Dunque, il tema dei maltrattamenti dentro le prigioni è un tema endemico, decennale delle prigioni brasiliane, e noi stiamo cercando realmente di lavorare per dare un contributo per rompere questa stigmatizzazione delle persone private di libertà. Non è facile, soprattutto perché, come dicevi tu, la popolazione è indignata con la violenza che è realmente in Brasile è molto molto estesa, però noi sappiamo che esiste un'alternativa possibile al sistema carcerario comune che funziona sia in termini di reincidenza che di recuperazione, di recupero, certo, delle persone private di libertà. Certo. Grazie mille Jacopo Sabatiello, lo ricordo, dirige le operazioni della Fondazione AVSI in Brasile. Jacopo, buona giornata, alla prossima, magari speriamo di risentirci con buone notizie sia in termini di Covid che di popolazione carceraria. Jacopo, buona giornata e buon lavoro, grazie. Buona giornata a voi, ciao. Allora, 349-238-6666, ci sarebbero tanti messaggi. Ho come l'impressione che tornare sul tema delle carceri sarà utile, anzi indispensabile, però a questo punto vi lascio con una parola sola. E con i saluti e i ringraziamenti che vanno a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.